Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ben trovato a Gianluca Codognato. Un saluto a te Mirko e a tutti gli amici in ascolto. Parliamo di una risonanza magnetica, è un tipo di esame a cui molti hanno dovuto fare ricorso per diversi motivi e succede di dover spostare magari un esame. La vicenda che raccontiamo oggi però vi ha visti coinvolti perché ci sono diversi soldini insomma in ballo, Gianluca. Sì Mirko, è la prima volta che ci capita un caso di questo tipo, anche perché è legato a una legge regionale del 2016, quindi dell'anno scorso, studiata appunto per combattere giustamente e legittimamente le lunghe liste d'attesa per qualsiasi tipo di esame. In questo caso da noi si è rivolta una 54enne veneziana, è venuta alcuni giorni fa nella nostra sede e ha parlato appunto con il nostro ufficio legale perché si è ritrovata con una richiesta di pagamento veramente, veramente alta e per aver saltato senza aver disdetto una risonanza magnetica fissata per il 23 febbraio. Allora, ricostruiamo un po' la vicenda. E questa signora appunto si era rivolta all'ospedale civile di Venezia, aveva chiesto appunto la possibilità di fare questa risonanza magnetica. Dopo qualche tempo, almeno questo è quello che dicono dall'ULS Serenissima di Venezia, dopo qualche tempo la signora è stata contattata ed è stato fissato appunto questo appuntamento per il 23 febbraio. Purtroppo in quel periodo la nostra socia, la nostra iscritta, stava passando un bruttissimo momento, avendo una madre gravemente malata, madre che tra l'altro è deceduta proprio in quel periodo là. E a lei, a questa signora, non risulta che nessuno l'abbia mai chiamata per fissare l'appuntamento, però Mirko ammette che era un periodo molto particolare, quindi non ci metterebbe la mano sul fuoco e questo ce l'ha chiaramente detto. Il problema appunto è che non si è presentata all'esame e qualche giorno fa gli è arrivata la richiesta di pagamento di 702,95 euro, che è in teoria almeno il costo dell'esame si è pagato in modo completo, quindi stiamo parlando di una cifra molto elevata per una risonanza magnetica non disdetta. Ora, chiaramente noi andiamo a contestare, a chiedere due cose all'URSS in questo caso, ovvero andiamo a chiedere intanto se è possibile avere la registrazione o capire davvero se sia stata chiamata la signora per l'appuntamento. In seconda battuta ovviamente andremo a chiedere che questa richiesta di pagamento venga ridotta, proprio perché alla base di questa dimenticanza ci stanno proprio appunto dei gravi motivi personali, appunto, quindi la grave malattia della madre e anche il conseguente decesso. Noi appoggiamo le battaglie che poi vengono fatte dall'ASL e dalla regione contro la lista d'attesa, riteniamo però che in questo caso sia davvero punitiva la richiesta del pagamento dell'intero esame, perché stiamo parlando di 700 euro e anche qualora insomma avessero chiesto esclusivamente il pagamento del ticket, sembrava insomma una punizione tra virgolette commisurata poi alla problematica creata. Invece 702,95 euro insomma ci sembra una cifra davvero esagerata. È giusto, come dicevi tu, cercare di limitare poi anche i costi della sanità, e il discorso delle liste d'attesa rientra proprio in questa politica. È giusto che chi non può fare un esame un tal giorno dia disdetta, ovviamente, come anche chi deve ritirare un esame lo faccia nei tempi stabiliti, questo appunto per ottimizzare la spesa pubblica di tutti. Ma questa signora a cosa può aggrapparsi? Cioè le sue speranze di non pagare tutta questa cifra su cosa si basano, Gianluca? Ma si basano proprio sulla definizione della legge numero 30 del 2016, che nell'articolo 12 spiega appunto che chi salta senza disdetta un esame dovrà pagare appunto l'intero esame secondo i suoi costi, secondo il tariffario, e però aggiunge anche fatti salvi i casi di forza maggiore. Allora, premesso che noi siamo d'accordo per combattere appunto le lunghe liste d'attesa, però è anche vero che forse qua stiamo parlando di richieste di pagamento comunque esagerate. Secondo noi, di fronte alla mancata disdetta, anche il semplice pagamento del ticket può essere più che sufficiente. In questo caso noi, ovviamente, il nostro ufficio legale, oltre a chiedere la registrazione della chiamata, se esiste, per fissare l'appuntamento, va comunque a contestare il fatto che qua siamo appunto di fronte a una causa di forza maggiore, quindi rientriamo sempre nelle definizioni della legge numero 30, che dice appunto fatti salvi i casi di forza maggiore. A nostro avviso, Mirko, questo è proprio un caso di forza maggiore, in quanto la signora non si ricorda neanche, tra l'altro, di aver fissato l'appuntamento proprio perché stava vivendo un periodo davvero difficile della sua vita. Questo è totalmente dimostrabile e crediamo veramente che l'ULS poi ci verrà incontro, perché credo che abbia capito un po' la situazione, la particolare situazione vissuta da questa 54enne veneziana, alla quale secondo noi appunto non si possono andare a chiedere quasi 703 euro per questa mancata disdetta. In generale crediamo che comunque siano cifre molto alte quelle richieste, forse il pagamento dell'intero esame è una punizione troppo grande per chi non disdice un appuntamento. Qualcosa ci vuole, ma qua stiamo parlando di cifre davvero esagerate. L'ultima cosa, la vicenda risale a febbraio, appunto, che era il giorno in cui questa prestazione sanitaria era stata fissata. Secondo te in che tempi la vicenda potrebbe arrivare ad una soluzione? Beh, guarda, allora, è vero che l'esame è stato fissato per febbraio, però ecco, la richiesta di pagamento è stata avanzata qualche giorno fa, penso non più di una settimana fa, quindi è un fatto molto recente. Noi crediamo che in tempi molto brevi l'ULS ci risponderà, anche perché oltre alla lettera, insomma, abbiamo anche cercato di diffondere la notizia a livello mediatico, quindi in realtà è già intervenuta l'ULS a livello mediatico dicendo che questo prevede la legge, ma è chiaro che vengono considerati casi di forza maggiore. Quindi noi crediamo che nell'ambito di, forse speriamo anche di questo mese, la situazione venga risolta, e naturalmente vi terremo aggiornati, perché riteniamo che questa sia una vicenda molto particolare da raccontare, e da raccontarla anche nei suoi sviluppi definitivi. E allora, gli aggiornamenti anche su associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.